gigante, scheggia gigante, viaggia per le montagne dell'essere, ci aggrappiamo alle corde per non disperderci nello spazio, attaccati a sto cazzo, rimango bravo ragazzo, e non capisco perché dobbiamo ogni volta litigare, sta andando male, ti lascio per sempre, forse per mai, per sempre come sai. Rimango qua con i miei guai a sparlare di me, solo di me lo sai. Non parlo male degli altri, parlo solo con i fra più stretti, perché la mia famiglia di strada mi ha dato qualcosa per essere più meglio della sola mala. Cerco di essere anche una brava persona, cerco di essere qualcosa. Lo snobismo che ci induce l'ho io, non sono tu. Sappi che a riposo ci metto io, Guantanamo in fiamme il mio oblio. Rimango qui, scrivo come fossi dionisiaco, rimango teso, iridiaco, risico di una battaglia già vinta, di quello che dici te non mi importa. Rimango qui una sorta d'alieno, come quelli che disegni fosse un foglio. Quindi che la navicella ci porti lontano, prendi pure te per mano, andiamo contro mano nella battaglia più pazza del mondo. Siamo quelli che danno ragione agli amici, siamo quelli che non vogliamo nemici. Meglio 20 amici al giorno che una ragazza che si possa anche levare, fanculo via di torno. Non me ne frega un cazzo, voglio fare cash come un pazzo, divertirmi nel mio loft con gli amici, capito? Vogliamo cose che neanche puoi dirle, neanche lo dici. Voglio fare una festa come fanno i veri guest, con montagne di soldi, prodotti e venuti giù di sta canzone. Rimango un'emozione dispersa nella breccia di una tempesta, rimango quello che è un'altra canzone gesta. Nella tua radio pensa, questa spacca più di una cazzo di donna in bikini di Malibu. Questa spacca più di una